Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si faccia avanti chi ne vuole. Di parole ho la testa piena, con dentro la luna e la balena. C'è qualche parola un poco bisbetica, per onospera aritmetica, ma le più belle le ho nel cuore, le sento battere. Mamma, amore. Ci sono parole per gli amici. Buongiorno, buon anno, siate felici. Parole belle e parole buone per ogni sorta di persone. La più cattiva di tutta la terra è una parola che odio, la guerra. Per cancellarla senza pietà, gomma abbastanza si troverà. E buongiorno a voi, molti di voi l'avranno riconosciuta, è la filastrocca delle parole di Gianni Rodari. Di parole parliamo oggi in questa puntata dedicata al linguaggio dei nostri bambini. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica nell'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a Nicoletta e agli ascoltatori, naturalmente. Professore, lo sviluppo del linguaggio ha un suo andamento tipico, che in una sequenza di fasi va dal primo pianto alla costruzione di una frase di senso compiuto. Ogni bambino, lo sappiamo bene, hanno tempi diversi, ci sono bambini che parlano prima di altri, le statistiche dicono che le femmine siano più precoci dei maschi, ma professor Stella, iniziamo dal primo urletto, che è un po' la prima forma di comunicazione del neonato. Lo sviluppo viene considerato rapido o lento a seconda del punto di vista, certamente di solito avviene nei primi 24 mesi. Il primo segnale, come dice lei, di comparsa del linguaggio da un certo punto di vista è la cosiddetta lallazione canonica, cioè dall'urletto, dal pianto che lei ha citato, il bambino comincia a strutturare delle prime forme che assomigliano alle parole, comincia a produrre dei suoni che sono estratti dall'ambiente in cui vive, per cui già a 6-7 mesi, per esempio, un bambino italiano pronuncia dei suoni che sono diversi da un bambino arabo o da un bambino cinese, perché li estrae dal suo ambiente linguistico in cui cresce, mentre fino a quell'epoca lì i segnali vocali che vengono prodotti sono segnali vocali che non risentono ancora delle caratteristiche della lingua in cui il bambino viene educato e in cui il bambino cresce. Quindi intorno ai 6-7 mesi, naturalmente, come ha detto lei, bisogna essere prudenti con i numeri, perché non è che se uno a 7 mesi non ha la lazione canonica bisogna subito correre dal pediatra. È chiaro che c'è qualche bambino che ci mette di più, qualcuno che anticipa, come succede anche per la deambulazione, che certo, è un elemento più visibile, per esempio. Dopodiché intorno ai 12 mesi cominciano a comparire le prime parole, proprio il vocabolario. E qui c'è un'accelerazione eccezionale del vocabolario da parte del bambino, perché lei pensi che in genere tra l'anno e i 15 mesi il bambino incrementa le sue parole, intendendo per parole qualcosa che il bambino produce in modo differenziato l'una dall'altra. Non è che il bambino dice per forza biscotto, può dire sì. otto, ma quella, se la mamma la interpreta come una parola distinguibile da un'altra, che può essere occio, orso, viene considerata… Vale. E quindi in genere un bambino tra i 12 e i 15 mesi incrementa circa 5 parole al mese, poi addirittura tra i 18 e i 20 mesi si passa a 20 parole al mese, poi 50 parole al mese, per cui l'accelerazione… Lei pensi che mediamente un bambino di 2 anni produce 300 parole, mediamente, naturalmente. Poi ci sono i bambini, mediamente vuol dire che ci sono bambini che parlano di più e bambini che parlano di meno. Andiamo a sentire una ricerca a proposito di numero delle parole. Attenzione alle mamme in ascolto. Mamma, papà, ciao, sì, no, cane e gatto. sono 7 delle 25 parole che i bambini di 2 anni dovrebbero conoscere. Secondo uno studio presentato a Vancouver, Canada, alla conferenza annuale dell'American Association for the Advancement of Science, infatti, i bambini di 24 mesi dovrebbero conoscere almeno 25 parole, tra le più importanti per la loro età, affinché siano in grado di sviluppare il linguaggio parlato secondo i giusti tempi. Leslie Rescorla e colleghi del Bryn Mawr College in Pennsylvania, Stati Uniti, hanno esaminato per 15 anni il modo di parlare di 78 bambini di 2 anni, giungendo alla conclusione che circa il 20% dei bambini di questa età può rimanere indietro nell'apprendimento del linguaggio rispetto ai propri coetanei. Di questi, circa il 60% accumula un ritardo nello sviluppo del linguaggio recuperabile con il tempo e l'esercizio. Secondo i test messi a punto da Rescorla e colleghi, il numero di parole che i bambini dovrebbero usare a 2 anni arriva a 310, con una media di 150 parole, e che il campanello di allarme deve suonare per i piccoli che a 2 anni usano meno di 50 parole, e in particolare se non arrivano a 25. Se il bambino manifesta difficoltà ancora intorno ai 2 anni e mezzo, consigliano i ricercatori, è bene iniziare a considerare una terapia per il linguaggio, da non rimandare oltre i 3 anni di età per consentire un recupero ottimale. Professor Stella, orientativamente questi numeri possono aiutare i genitori all'ascolto, vero? Sì, possono aiutare anche perché esistono anche delle piccole checklist che i pediatri conoscono e che i genitori possono utilizzare per verificare se i loro bambini, ecco, intorno ai 2 anni pronunciano o no un numero di parole. Ripeto e sottolineo con grande chiarezza, non si tratta di dire bene la parola, si tratta di usare tipi di vocalizzo diverso per ciascuna parola, e si tratta naturalmente di avere minimamente una forma bisillabica, cioè perché vede, nella nostra lingua la base principale è la sillaba piana, cosiddetta mamma, sì. Consonante vocale, tata, pipi, toto, cacca, sono tutte parole che i bambini pronunciano all'inizio perché vengono dalla cosiddetta allallazione canonica e consistono nella ripetizione della sillaba, che poi diventa variata. Per dire potta, porta, è sempre 2 sillabe piane, ma che variano, non che si ripetono. 800, allora, mi scusi professore, sì, 800 24 00 24 se volete intervenire, parlare dei vostri bambini, delle parole che dicono, delle parole che loro ripetono anche in modo un po' buffo. Abbiamo dato dei numeri, abbiamo il professor Stella qua al telefono con noi, a vostra disposizione, quindi oggi parliamo anche di come possiamo stimolare i nostri bambini ad apprendere. Professore, lei voleva concludere? Ah, sì, volevo dire che non devono essere 25 suoni, devono essere 25 produzioni che hanno la forma di una parola, ecco, cioè che hanno almeno le 2 sillabe famose, insomma, che abbiamo detto prima, ecco. Quindi senza eccessivo allarme, se un bambino a 24 mesi, tra i 24 e i 30 mesi non pronuncia, non denomina, diciamo, quei 25-30 diversi oggetti o situazioni, bisogna un po' tenere d'occhio la situazione. Prima di tutto io consiglio di inserire i bambini nelle comunità infantili, perché a volte un bambino che ha delle difficoltà a sviluppare il linguaggio utilizza meglio il linguaggio dei suoi simili per imitarlo che non, certo, il linguaggio dell'adulto. Quindi una prima misura, diciamo, di profilassi dello sviluppo. Alla scuola è quella materna si cresce, esatto, si diventa grandi, sì, e si, esatto, impara a parlare. Mamma, papà è al guidante? Raffaella, 2 anni e mezzo. Mamma, posso usare la moto fotografica? Matteo, 2 anni e mezzo. Mamma, voglio mangiare. Sono famoso. Luca, 2 anni. strafalcioni tratti dal libro Dizionario Bilingue Italiano Bambinese Bambinese Italiano. In linea con noi abbiamo Francesca Del Rosso, che insieme a Daria Poliedri ha raccolto 400 termini d'uso comune che rientrano di norma nel vocabolario dei bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi. Ciao Francesca. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta. Francesca, ciascuno di noi si ritrova nel dizionario perché tutti noi abbiamo parlato bambinese, e quando si diventa genitori del bambinese si diventa interpreti, e questa è la storia. Francesca. Assolutamente sì, oltretutto diciamo che questo dizionario è nato anche per ricordarsi e ricordare poi ai nostri figli come parlavano, che è la cosa anche più divertente, cioè ci si può anche ridere su, e spesso le mamme si sente dire questa parola la dice così e poi dopo sei mesi non se lo ricorda più, perché insomma il tempo passa, i bambini cambiano continuamente anche il linguaggio, e invece in questo modo noi abbiamo cercato di dare un po' una traduzione di massima di questi 300 vocaboli, che sono 300-400 che sono i più usati, ma diamo anche la possibilità insomma di mettere per iscritto il linguaggio, il bambinese appunto, dei nostri figli. E quindi nel tuo libro, il vostro libro è proprio un invito ai genitori a raccogliere gli strafalcioni dei loro bambini per scrivere un dizionario bambinese italiano tutto familiare, proprio della famiglia. Assolutamente sì, poi è chiaro che noi abbiamo fatto una ricerca non scientifica attraverso mamme raccolte su internet, amiche, colleghe, maestre, per riuscire a raccogliere i vocaboli più usati e le traduzioni più, diciamo, più popolari di alcuni vocaboli. Quindi spesso, per esempio, il classico vomito ormai è universale, che in Italia i bambini quasi tutti dicono gomito. Da Facebook i nostri ascoltatori possono seguirci anche su Facebook e su Twitter. Mi scrive una mamma: mamma, mi fai profumare mia figlia Martina di 2 anni e 8 mesi quando chiedo di annusare qualcosa in cucina. Mamma, devi andare dal dottore a fare una aggiustazione? Alice, 3 anni. Cosa fa il cane? Babbaia! Mamma, ho la colite in bocca. Angelica, 3 anni e mezzo. A proposito di strafalcioni, professor Stella, fanno sorridere, ma ci impresti il suo orecchio clinico? Come possiamo distinguere quelli naturali, fisiologici, da quelli invece che potrebbero essere la spia di un piccolo problema? Ma allora, gli strafalcioni sono una cosa fisiologica nel linguaggio, perché il bambino, ricordiamocelo, inventa il linguaggio, nessuno glielo insegna. Noi ci inventiamo il linguaggio, come diceva il buon Piaget, nel senso che è un processo generativo che ciascuno di noi elabora e che viene poi convenzionalizzato, cioè la mamma che dice alla bambina ridendo «no, non hai la colite, hai l'acquolina», corregge una tendenza del bambino a creare delle nuove parole oppure a utilizzare delle parole in contesti sbagliati. Non dimentichiamoci che tutti i bambini dicono ho aprito la porta, ho spegnuto la luce, eccetera, che sono degli ipercorrettismi che ci fanno vedere. Pensi, che bambini... professore, che l'ha detto anche lei quando era piccolo? Ecco, anch'io. Vede. Certamente. Spero di sì, spero di sì, senz'altro. Allora, direi che per distinguere l'orecchio clinico qual è? Prima di tutto sono le distorsioni dei suoni, non tanto la modifica delle parole. Il bambino che produce parole come guidante, come quelle che avete citato prima, è un bambino che non ha problemi di linguaggio sostanzialmente, mentre i bambini che hanno dei problemi di linguaggio storpiano le parole più che costruirne delle nuove, e quindi tendono per esempio a prolungare per tanto tempo la presenza di parole con struttura ridotta, a dire potta, cappe oppure che ne so, bitotto per troppo tempo, fino a 3 anni, 4 anni, quando anzi fino a 4 anni, perché a 3 anni è ancora accettabile. Intorno ai 4 anni è un po' l'età che fa la differenza. Sì. I bambini, come diceva lei, professore, sono esposti alla lingua, hanno bisogno anche di stimoli. Francesca nel libro punti il dito sulle mamme che usano troppo il bambinese, insinuando un dubbio e invitando ad una riflessione. Andiamo. La mamma che parla quasi esclusivamente con il linguaggio infantile, privilegiando vezzeggiativi leziosi, balbettii, parole segrete e incomprensibili, imita il bimbo senza però fornirgli un livello più evoluto da imitare, che lo aiuti a parlare e rendersi indipendente. Forse è il desiderio inconscio che rimanga piccino, che non cresca mai, che non si stacchi dalla mamma, aprendosi attraverso il linguaggio a nuove relazioni. È il bimbo che non vuole crescere? O è la mamma che è stata colpita dalla sindrome di Peter Pan? Francesca. Questa è un po' una esperienza e ho conosciuto alcune mamme che in qualche modo attaccate così tanto ai loro figli non hanno voluto o magari non se ne sono accorte sviluppare in qualche modo un linguaggio con loro, quindi magari mi dicevano: ma mio figlio non parla il suo linguaggio, io però lo capisco e quindi andiamo avanti così e ci capiamo io e lui. Io ritengo che va bene giocare con le parole, io sono la prima che si diverte a raccogliere gli strafalcioni appunto e a giocarci insieme, però attenzione, perché poi il rischio è che il bambino, chiaramente, poi lo dirà meglio sicuramente il professore, rischia poi di non sviluppare quel linguaggio che appunto magari attraverso invece una scuola materna, un asilo nido è sicuramente più facilitato in qualche modo. Quindi ho paura, insomma, spesso mi sembrano più che siano le mamme che non vogliano sganciarsi dai loro figli rimanendo piccole anche loro in qualche modo. Francesca, tu dici: io gioco con le parole, nel tuo libro Dizionario Bilingue Italiano-Bambinese, Bambinese-Italiano, vi ricordo il titolo perché me lo state richiedendo, ma lo ricordo perché il libro è molto, molto carino e divertente, fatto molto bene. Tu suggerisci proprio di giocare con le parole, quindi filastrocche, favole? Assolutamente sì, credo che sia uno sforzo che noi genitori dobbiamo fare, non è facile perché poi noi parliamo il nostro linguaggio corretto, il classico italiano, e quindi è difficile giocare con le rime, soprattutto perché non ci siamo più abituati, quindi quando arrivano i bambini in qualche modo tutte le regole vengono un po' sovvertite, anche quelle del linguaggio, e anche noi stessi ci dobbiamo un po' mettere alla prova, quindi attraverso libri di filastrocche, ma anche noi stessi magari a cena, io e mio marito, i nostri bambini, cerchiamo di cercare le rime, le ripetizioni, giocare un po' con i suoni, insomma far giocare anche con i vocaboli, che poi è, credo sia un modo corretto per insegnargli anche parole nuove. Francesca, ti lascio con un messaggio di un ascoltatore che mi scrive lo strafalcione del suo bambino, magari mi sembra di avere letto uno simile già nel tuo libro, ma guarda papà i fuochi dentifricio, mia figlia Marica ha 3 anni. I fuochi di dentifricio sono molto, ne ho sentiti parecchi, evidentemente piacciono molto. Ho sentito anche i fuochi dell'altro ufficio, che non è male. Non è male, segniamo anche questa, grazie a Francesca Del Rosso, buona grazie giornata. Grazie a voi, arrivederci. Noi abbiamo Ciro che ci chiama da Napoli, buongiorno Ciro, benvenuto. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Sì, io ho 2 gemelli di 3 anni. Un maschio e una femmina, hanno iniziato la scuola materna e il maschietto ha sviluppato di parecchio il linguaggio, mentre la femminuccia niente, non riesce a dire neanche una frase, solo qualche parolina, è da preoccuparsi di fare qualche visita oppure aspettare. Professor Stella, maschio, femmina, gemelli, di solito si dice che le femmine siano più precoci, nel caso di Ciro invece è il bambino che parla di più, mentre la bambina si limita a dire qualche parolina, vanno a scuola, frequentano la scuola materna che lei ha detto essere proprio una buona palestra per apprendere il linguaggio. Quale indicazione può dare a Ciro? Ma intanto, come vedete, l'eccezione conferma la regola, quindi non bisogna mai essere troppo fermi sulle regole, le femmine parlano prima dei maschi, questo è il caso opposto. Ma allora, intanto osservare lo sviluppo del vocabolario, perché fino a un certo punto dello sviluppo, cioè fino ai 3 anni, l'aspetto più importante è lo sviluppo del vocabolario. Quante parole dice è in effetti la misura più precisa che ci sia dello sviluppo del linguaggio, e quindi fino a quell'età lì. dopo i 3 anni è sempre utile, a mio avviso, consultare una logopedista per far dare un occhio clinico, ecco, perché ci sono molti genitori che ovviamente si adattano al linguaggio dei bambini, come è stato detto prima, e quindi non si rendono conto del mancato sviluppo, poi si preoccupano improvvisamente quando arriva il periodo della vicinanza dell'ingresso alla scuola primaria. E noi andremo a scuola nel corso della trasmissione, i bambini imparano a parlare, imparano il linguaggio, poi devono andare a scuola, imparare a leggere e a scrivere. Altri ospiti ci raggiungeranno nel corso della trasmissione. Aspettiamo gli strafalcioni dei vostri bambini, le parole dei vostri bambini e anche i giochi che fate con loro, quelli che vi ricordate facevano i vostri genitori con voi per imparare l'arte del linguaggio. E riprendiamo a parlare di linguaggio, del linguaggio dei nostri bambini. Crescono parola dopo parola, strafalcione dopo strafalcione. In linea con noi abbiamo il professor Stella, pronto a rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi. E abbiamo anche in linea un ascoltatore, Temaco, dalla provincia di Treviso. Buongiorno, forse ho sbagliato l'accento. No. Inizia per C, Climaco. Comunque, buongiorno. Ah, buongiorno, allora abbiamo sbagliato proprio tutto il nome. Bene, benvenuto comunque. Grazie mille. Sostanzialmente ho un bambino di 3 anni e 4 mesi. Sì. Il quale omette tutte le lettere S. Quindi la zia Serena diventa la zia Terena, il scavatore diventa cavatore, e poi non costruisce bene proprio le frasi, anche quando fanno le canzoncine alla scuola materna lui non partecipa, si vede come gli altri bambini parlano un linguaggio corretto, normale, lui vedo che ha difficoltà. Volevo portarlo a un logopedista, mia moglie diceva aspetta un attimo, adesso non lo so, vorrei chiedere un parere al professor. Professor Stella. Ci sono delle consonanti che non vengono, io lo so bene. Ci sono delle consonanti che non vengono, sono una la S e l'altra la R. Difatti si parla di sigmatismo e rotacismo, che sono, diciamo, gli atti articolatori che ci aiutano a produrre questi due suoni, che sono considerati i due suoni più difficili del nostro repertorio fonetico, e quindi quelli che spesso, nella maggior parte dei casi, compaiono tardivamente. In questo caso non ho capito bene dall'ascoltatore se sono sostituiti o sono sostituiti, suoni, vero? O messi. A volte in qualche caso sostituiti, a volte vengono proprio messi. Saltati. Sì, sì. E quando il bambino li sostituisce sempre con lo stesso suono, tendenzialmente. Quindi in questo caso, diciamo, si parla di un processo fonologico abbastanza regolare, però io propendo per l'opinione del papà invece che della mamma. Di solito sono le mamme un po' più ansiose rispetto a questi problemi. Io direi che è bene fare colloquio con una logopedista. Due chiacchiere con una logopedista. Sì. La cosa che mi viene in questo caso da suggerire è: gli insegnanti di scuola dell'infanzia in genere sviluppano una buona esperienza, sì, e quindi sono in grado eventualmente di consigliare perché hanno un occhio più in questo caso un orecchio più attento. In questo caso ha ragione, un orecchio più attento dei genitori, cioè per esempio il genitore non è spesso in grado di valutare, perché come si è stato detto si dimentica facilmente quello che succede prima, mentre l'insegnante può anche dire 3 mesi fa questo bambino parlava in modo non comprensibile, adesso parla in modo molto comprensibile. A proposito di chiacchiere con la logopedista, abbiamo in linea con noi una logopedista vera, Clara Polli, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Polli, i genitori si interrogano a volte, la portiamo da una logopedista? No, aspettiamo. Che cosa fa la logopedista e come può aiutare un bambino? Siamo in un'età compresa, nella scuola, all'asilo, alla scuola materna. Come può aiutare un bambino ad apprendere il linguaggio, a sviluppare, ad arricchire il suo vocabolario? i genitori hanno una, un ruolo molto importante da un punto di vista di, per aiutare il loro bambino a utilizzare un linguaggio corretto, se si accorgono che è un bambino che è un parlatore tardivo, per esempio un bambino che ha un'espressione, un ritardo espressivo rispetto ai bambini suoi coetanei. Può essere un bambino che può funzionare bene da un punto di vista semantico, quindi un bambino che esprime i significati, ma funziona male nella sua struttura superficiale. Quindi in questi casi che cosa si può fare? Allora, in questi casi è importante comunicare con il proprio bambino in modo corretto e non adeguarsi al suo linguaggio. Quindi no al bambinese, prima regola. Esatto. Noi spessissimo vediamo i genitori insieme ai loro bambini e nel momento in cui arrivano da noi si rivolgono ai loro bambini in modo assolutamente inadeguato. Questo è un aspetto importantissimo da sottolineare. Come è importante sottolineare, dottoressa Polli, anche l'importanza del suono e del ritmo. I bambini sono esposti al nostro linguaggio, ma non basta parlare, bisogna anche sapere come farlo, quale ritmo avere, quali suoni privilegiare. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Sandro Burdo, medico audiologo all'ospedale Buzzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Dottor Burdo, a proposito di linguaggio e di parole, è importante avere il giusto ritmo, perché i bambini, l'orecchio del bambino, che poi passa tutte le informazioni al cervello, è un orecchio che ha una certa abilità nel catturare le parole, ma ne cattura un certo numero. Certo, certo. Il concetto di base è che il linguaggio è la conclusione, come parla un bambino, la conclusione di una filiera che inizia con l'ascolto, ovviamente. Quindi noi parliamo come sentiamo e, attenzione, come capiamo. La cosa importante che spesso viene dimenticata è che la capacità di un cervello di un bambino di elaborare il numero di parole al minuto è nettamente inferiore a quella di un adulto. Questo è il motivo per cui i nonni hanno successo quando parlano ai bambini, hanno successo perché si rivolgono a loro con una velocità di alloquio molto bassa. Un bambino di 3-4 anni riesce a riconoscere non più di 30-40 parole al minuto. Teniamo presente che io in questo momento sto parlando a 60-70 parole al minuto, quindi il mio linguaggio viene in parte riconosciuto e capito. Poi il bambino ci arriva lo stesso, nel senso che capisce il senso della frase, il contesto, certo, e così via. Si arrangia. Ma la sua capacità di riconoscimento è nettamente inferiore. Questo è importante, soprattutto con le mamme, quelle che noi definiamo le mamme mitraglia, che parlano in un modo eccessivamente rapido e non si rendono conto che il bambino a un certo punto non le segue più. Si fa gli affari suoi e non perché non capisce. Mamme mitraglia, certo che siete. Che devo fare? Senta, dottor Burdo, prima di salutarci, noi dobbiamo andare poi alle informazioni sul traffico e vorrei parlare col professor Stella, così lo anticipo, di qualche indicazione sulla scuola, sul eventuali problemi nella lettura. Dottor Burdo, ci sono dei bambini che chiedono alla mamma, al genitore, alla maestra di ripetere le parole. Sì. Ci dia lei, in modo molto chiaro, semplice, senza spaventarci, delle indicazioni, magari riguardo anche ai controlli a cui sottoporre il nostro bambino. Allora, per l'udito, è importante valutare anche... Allora, se un bambino lo chiede vuol dire che non ha un problema grave, perché nel momento in cui lo chiede vuol dire che ha qualcosa, ha percepito e quindi è in grado di riconoscere un problema. La prima cosa da fare è ovviamente un esame dell'udito dallo specialista, perché in questo modo vengono a definirsi le sue condizioni di base. Se l'udito è a posto e il bambino ha ancora delle difficoltà, si può agire in un modo ancora più approfondito, valutando delle patologie in questo momento emergenti, che sono delle patologie che implicano la comprensione, che possono essere gestite bene da una logopedista in grado di gestire questo tipo di attività, di patologia. La cosa importante è affidarsi a uno specialista, questo è il concetto di base. Grazie dottor Burdo per essere stato con noi. Il professor Stella, Clara Polli rimangono insieme a noi, andiamo a scuola, indicazioni per i genitori che hanno bambini alle prese con la lettura e la scrittura. Lascia fare a me. Eccolo che viene. Sì, esattamente come diceva la duchessa proprio ieri. Oh, oh, sono imperdonabile. Oh, mamma, mamma. Sono veramente dispiacente. Io spero che non si sia fatto male. Io sto benissimo. Ah, grazie al cielo. Bene, bene. Uno studente, non è vero? Guardami come io, un uomo di lettere. Ecco il suo libro. Vado a scuola. Scuola? Ah, sì. Ah, come si chiama? Pinocchio. Pinocchio! P-I-N-Q. A scuola si va per imparare a leggere, a scrivere, a fare di conto, ma per alcuni bambini imparare è più difficile, più impegnativo che per altri. Non è una questione di intelligenza né di scarso impegno. Ne parliamo proprio tra poco con il professor Stella, accennando dando delle indicazioni per i genitori all'ascolto, per dedicare poi un'intera puntata, come mi state chiedendo, ai bambini che si confrontano con gli impegni scolastici. Intanto abbiamo Gianluca che ci chiama da Teramo. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Nicoletta e bentrovati a tutti e saluto a tutti i vostri ospiti. Io volevo dire questo, ho una bimba di 3 anni compiuti e un bimbo di quasi 1 anno, ho 40 anni quindi siamo relativamente giovani e mia moglie, e mi stupisco certe volte di mia figlia che ha un lessico decisamente superiore alla media, usa delle parole anche articolate, molto forvita, e un linguaggio forvito, e soprattutto ci riprende a me e mia moglie. Addirittura. Sbagliamo. Professor Stella, qua c'è un problema inverso, una bambina con un linguaggio assolutamente forbito. Ma sì, il linguaggio forbito, lo sviluppo del lessico, come abbiamo detto prima, ha delle accelerazioni eccezionali. Prima parlavamo delle 300 parole ai 2 anni, quella è la media, ci sono bambini che conoscono 500 parole a 2 anni e a 3 anni conoscono 1000 parole, ovviamente sono la coda, diciamo, eccezionale. Però... Ma la maggior parte dei bambini dobbiamo ricordare bene che eccezionale è il nostro sistema di apprendimento, le nostre capacità, perché la maggior parte dei bambini entro il compimento del 3° anno di vita ha completato il repertorio fonetico e in genere parla correttamente. Quindi sono una quota, anche dicendo il 10-15%, sì, come dice Rescorla, è sempre comunque una quota ridotta, sia pure cospicua, certo, di bambini, anche se poi tra il 3° e il 4° anno, tra il compimento dei 3 e il compimento dei 4, c'è un altro grandissimo avanzamento, per cui dopo i 4 anni non rimangono in generale più del 3-4% dei bambini che presentano le difficoltà, che sono poi purtroppo quelli che hanno elevate probabilità, circa l'80% di probabilità di sviluppare successivamente dei disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura. Ecco, professor Stella, ai problemi di apprendimento della lettura e della scrittura vorremmo dedicare una puntata intera, perché il tema è complesso e vogliamo dare informazioni chiare e precise. Ma professore, diamo qualche indicazione ai genitori che hanno bambini che fanno un po' più fatica a leggere di altri. Quali sono i segnali che dobbiamo tenere sott'occhio, sott'orecchio, dovrei dire? Allora, sì, sott'orecchio sono la persistenza di parole pronunciate come i bambini piccoli. Qui, prima parlavamo del bambinese degli adulti. Sì. Se un bambino tra i 5 e i 6 anni produce ancora troppe parole storpiate, quindi ridotte, con una struttura sillabica semplice, quello è un campanello di allarme dell'orecchio. Quindi sì, chi sente il bambino che parla ancora così, non deve farsi tradire dai soliti discorsi, ma lui vuole restare piccolo. In genere i bambini vogliono restare piccoli attraverso tante altre strategie. Di solito il linguaggio si sviluppa spontaneamente, certo, e quindi tra i 5 e i 6 anni un bambino che dice ancora Bibbo mangia, sì, voglio cappe per dire voglio le scarpe. Ecco, quello insomma, ci deve portare. Quello è un segnale. Sì. Secondo segnale? Secondo segnale sono le difficoltà con le parole nuove. Difficoltà con le parole nuove. Di fronte a una parola nuova che viene pronunciata dal bambino che lo chiede, come si diceva prima, chiede che cosa vuol dire, oppure ripetimi la parola, il bambino deve avere una buona memoria fonologica, cioè una traccia che rimane nella corteccia che gli consente di copiare, tra virgolette, lo stimolo, sì, che viene prodotto. Questo sembra essere un indicatore molto importante. La memoria fonologica. Poi naturalmente c'è anche qualche avvisaglia dell'orecchio, ma anche qualche avvisaglia dell'occhio. Il bambino che per esempio non riconosce le lettere del proprio nome, sì, perché ormai tutti i bambini alla scuola dell'infanzia sono allenati a riconoscere il proprio nome, anche se non conoscono il valore fonemico delle singole lettere. Però lo riconoscono, quindi esatto, con queste indicazioni. Come se fosse il loro logo, come se fosse il mio McDonald's, il mio logo. Sì, il mio logo lo riconoscono. Il mio logo è Giacomo e io lo riconosco. Anche se non so bene le lettere, quindi queste sono delle indicazioni importanti. Sì, torneremo. Un bambino che persiste a 5 anni dopo che dalla scuola materna questi stimoli vengono proposti precocemente, anche a 5 anni ancora non riconosce il proprio nome, è un segnale. Allora io voglio salutare la dottoressa Clara Polli che è stata con noi, voglio ringraziare il professor Stella e voglio anticiparvi che sulla nostra pagina del programma metteremo un'intervista al dottor Salvatore Basta, l'abbiamo in linea, è anestesista e rianimatore presso l'ospedale Borsellino di Marsala, ma lo mettiamo nel suo racconto perché anche lui è stato un bambino disgrafico, la sua storia è diventato un racconto autobiografico, si è classificato terzo al premio You Care per la narrazione, il concorso della Fondazione Giancarlo IV destinato ai medici che, pensate, si trasformano in scrittori per raccontare le loro esperienze di vita e soprattutto umane. Per sentirlo andate sul nostro sito.